Nisoletti, buongiorno. Dalla provincia di Palermo. Io in provincia di Palermo la porto nel profondo sud. Sì. Per dirle che da noi le minicar invece sono un'estensione del 416 bis. Cioè la macchina dei mafiosi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Nei piccoli centri della provincia, i mafiosi usciti dalle carceri a cui è stata tolta la patente viaggiano tranquillamente con queste minicar, continuando a essere ossequiati nei corsi e nelle piazze dei paesi. Quindi è uno status symbol importante, al contrario, con negatività chiaramente. Guardi, lei le sono veramente grato, perché questa mattina, nei 10 minuti che ho avuto a disposizione per cambiare trasmissione e pensare che forse potevamo parlare dei minicar, a me interessava molto questa sorta di analisi della percezione, proprio da un punto di vista antropologico, di questo oggetto, di questa protesi alla propria possibilità di autodefinirsi socialmente, individualmente. E vede, col variare delle latitudini nel nostro paese cambia anche la percezione della protesi. Nel centro Italia è oggetto di riconoscimento di appartenenza a uno status privilegiato, economico, socialmente ricco. Al sud è il simbolo dell'uomo d'onore che, pur colpito da una legge ingiusta che gli ha tolto la patente, gli ha tolto la parte della sua cittadinanza, continua con la minicar a rappresentare il suo potere, quindi a dominare il suo territorio. O sbaglio? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Io mi muovo alla barba di tutti, alla faccia di tutti, continuo ad andare in automobile. Assolutamente. Alla faccia dello Stato che mi ha tolto la patente. Assolutamente, ostentando comunque il mio... E com'è il minicar del mafioso tipico, per capire? Com'è attrezzato? Il minicar del mafioso tipico non è particolarmente ricco di strisce, colori, è abbastanza sobrio da questo... Ma è antiproiettile, no? No, non è antiproiettile. Però sarà truccatissimo, andrà veloce. Sì, andrà veloce, soprattutto per la mentalità ancora particolarmente inquinata che ci sono nei paesi delle province, ha sempre diritto di precedenza.